ricordarmi di te. Ombre trafiggono il mare, come le stelle che cadono e non si accendono più. E passa un cielo di nuvole mentre mi piove nell'anima. Sono stagioni che vanno lontano e non tornano più. Per ricordarmi di te, della tua bocca di maggio. Era un gioco, ma credimi, non c'entra niente con te. Perché stanotte è la mia e devo andare lontano, ovunque il vento mi porterà, voglio vedere che c'è. Per ricordarmi di te sono salito su un treno e ho pensato che un giorno magari ti incontrerò senza più niente tra noi, senza passare da dove sei, dove sei, senza passare da dove sei. Quando i miei sogni saranno rimasti ormai dietro di me, per ricordarmi di te. Ricordarmi di te, per ricordarmi di te.